tutte le sere in questo vico io canto l'amore e tu chitarra mia mi spezzi il cuore, babbo, con l'entusiasmo di farti sentire ti metti a suonare ed io canto l'amore. Io scrivo un nuovo canto d'amore, la mia chitarra vibra sotto le dita, la canzone di un vagabondo fa commuovere anche i più importanti, una donna si avvicina, mi dà un bacio e poi si allontana.